Mine Vaganti di Federico Taddia. Il doppio petto è lento, i blue jeans sono rock, il cannone è lento, i fiori sono rock. La fanfara è lenta, il rock è rock, Zeman è rock, Cassano è rock, Adriano è rock, Moggi è lento. E apriamo col giochino di Adriano Celentano, tutto ciò che è lento, tutto ciò che è rock. Questa puntata di Mine Vaganti in diretta anche oggi, giorno di Ferragosto, dagli studi di Radio 24. Buon pomeriggio da Federico Taddia. Oggi giocheremo con il lento che per noi è rock. In questo pomeriggio di ritorno, in questo pomeriggio anche di code, di traffico, in questa giornata dove bisognava comunque divertirsi a tutti i costi, noi vogliamo ribaltare questa credenza e lo facciamo parlando di lentezza, parlando di vivere con lentezza. Con me infatti in studio c'è Bruno Contigiani, che da qualche anno porta avanti insieme ad alcuni amici questa politica di freno a mano, cioè di freno a mano tirato. Si può vivere meglio vivendo lentamente. Ciao Bruno, grazie per essere buongiorno qua con noi. Buongiorno a tutti, ciao Federico. Sì, si può rallentare, si può cercare, avere il coraggio di cercare la felicità attraverso il rallentamento. Ecco che insomma è parola facile da dire, no? Se uno vive lentamente, cioè la tua vita racconta di una carriera, tu uomo in carriera, capo ufficio stampa di IBM Italia, un manager di multinazionale, a un certo punto hai detto basta. Ho detto sì, fermiamoci un attimo, e siccome non si può scendere perché il mondo temo che sia destinato ad andare sempre più velocemente, a questo punto l'ha pensata con questi amici con cui poi ci troviamo ai bar a leggere, a camminare, è stata quella di dire: beh, proviamo a rallentare noi, proviamo a fare qualche cosa per cercare di star meglio e da lì vivere con lentezza. Tra l'altro, anticipando un po' una moda, ma forse non è una moda, è proprio un'esigenza, perché in tanti in questo periodo stanno uscendo tantissimi libri, anche comunque ci sono scelte di vita proprio rivolte al riguadagnare i propri tempi e i propri spazi, quindi probabilmente questa società anche richiede a un certo punto di fermarsi, di guardarsi intorno e di imparare a gestire e a gestirsi, probabilmente. Sì, è vero, sta diventando una moda, perché quando abbiamo cominciato il termine lentezza era considerato negativamente, invece adesso lo è positivamente. Però credo che ci sia proprio un bisogno, la gente si rende conto che avanti così non si può andare e quindi prova attraverso delle forme individuali, comincia a capire che da sola può fare la differenza. Viverecollentezza.it è il sito di riferimento della vostra attività che di fatto ha molteplici direzioni, però c'è questa giornata della lentezza, sì, che da qualche anno che proponete, una giornata in cui chiedete di rallentare, di fatto. Sì, chiediamo alla gente di ricordarsi che il tempo è la loro ricchezza e di manifestare in qualche modo la loro voglia di cambiare nel modo di proprio manovrare il tempo a loro disposizione. Quindi andiamo in giro un po' provocatoriamente per il mondo a invitare le persone a rallentare. Parleremo di queste tappe che avete fatto e di quelle future. Tenteremo anche di fare poche teorie e molta pratica, perché tu nel tuo libro Vivere con lentezza, piccole azioni per grandi cambiamenti, edito da Orme, dai consigli pratici e soprattutto dai questi comandalenti, che sono indicazioni sul come appunto abituarsi nella quotidianità. Sì, le piccole cose che si possono fare, per esempio non impazzire guardando l'acqua che bolle, perché tanto non bolle prima se continuiamo a osservarla. Giocheremo con i comandalenti, ma chiederò anche a voi i vostri comandalenti, se anche voi nella vostra vita, a un certo punto, nella vostra quotidianità, nel vostro giorno per giorno, vi accorgete o vi sforzate di rallentare, di fermarvi un attimo e dire: alt, questa cosa la posso fare anche con più tranquillità. Oppure, se avete fatto scelte molto più dirompenti, siamo qua, potete raccontarcele via SMS al 349-238-6666 oppure attraverso il numero verde 800-24-00-24. Ecco, uno in questo momento, per esempio, sta guidando e sta rallentando per forza, magari è in coda, magari c'è traffico, hai un consiglio? figlio. Sì, non si deve arrabbiare. Prima cosa, non si deve arrabbiare, eliminare la rabbia, magari fare un programma, non mettersi a telefonare a tutti gli amici e alle persone che gli passano per la testa, invece magari fare un programma della serata e pensare che tutto sommato può essere una buona opportunità quella che gli capita. Ecco, può essere un'idea. Continuiamo a parlare di lentezza, anzi di comunicazione lenta. Stai attento, Bruno, perché ti sbalordirò. Parliamo infatti di messaggi in bottiglia, non c'è niente di più lento. Grande. Per comunicare, ed entriamo in argomento con un messaggio che è un po' il cuore di un film di qualche anno fa, Le parole che non ti ho detto. Alle navi in navigazione e ai porti di scalo, alla mia famiglia e a tutti gli amici ed estranei. Questo è un messaggio e una preghiera. Il messaggio è che i miei viaggi mi hanno insegnato una grande verità. Io ho già avuto quello che tutti quanti cercano e che soltanto pochi trovano. La sola persona al mondo che ero destinata ad amare per sempre. Una persona come me. Di Outer Banks sull'oceano atlantico misterioso. Una persona ricca di semplici tesori, che si è fatta da sola, che da sola ha imparato. Un porto in cui mi sento a casa per sempre e che nessun vento, nessun problema, nemmeno la morte potranno mai distruggere. Beh, nell'era delle email è difficile, no? Pensare a un messaggio in bottiglia. Poi sfogli i quotidiani. Il Gazzettino di ieri l'altro diceva: Eva è il messaggio nella bottiglia. Questa ragazzina di 11 anni che ha ritrovato un messaggio che era stato appunto lasciato nel mare un paio di anni fa. Oppure il resto del Carlino di ieri, siamo a Rimini, trova nella bottiglia il messaggio di 36 anni fa, la scoperta di un turista al bagno 79, e ti incuriosisce scoprire che c'è un primario di ortopedia che ha scelto la lentezza, cioè lunghe passeggiate sulla spiaggia di Termoli per andare a cercare questi messaggi in bottiglia. Ne ha trovati tantissimi, che ha poi trascritto nel sito www.messaggidalmare.com. Do il benvenuto a Roberto Regnoli. Ciao Roberto, buon Ferragosto. Buon Ferragosto anche a voi. Tu sei un cacciatore di messaggi in bottiglia? Sì. Okay, mi piace fare queste lunghe passeggiate col mio amico Piero e con i miei cani Dago e Kira lungo le spiagge del Molise e delle Puglie a ricercare questi messaggi. Quindi ci sono cani da tartufo e cani da messaggio in bottiglia, no? No, i cani ci accompagnano soltanto, non è che trovano i messaggi. Ascolta, anch'io ho passeggiato per chilometri lungo le spiagge italiane, ma non ho mai trovato una bottiglia con un messaggio dentro. Sei particolarmente fortunato o sai cercarli? No, oltre che c'è un detto, chi cerca trova, abbiamo fatto poi uno studio, dopo che abbiamo cominciato a trovare questi messaggi, c'è un giro di correnti che scarica purtroppo non solo i messaggi, ma tutto, ovvero migliaia di bottiglie di plastica, televisori, lavatrici, ovvero tutto quello che la stupidità dell'uomo butta sulla spiaggia, il mare ce lo ributta addosso e li scarica tutti in questo golfo che va da grosso modo a Punta Penne alla punta del Gargano, ovvero dove abito io. E così, girando sulle spiagge, abbiamo cominciato a cercarli, trovarli, e poi insieme a un mio amico li abbiamo pubblicati in un sito. Ne abbiamo trovati più di 350 in 5 anni. In 5 anni più di 350 bottiglie con messaggi che provengono da dove? Li hai divisi per categorie? Si può generalizzare? No, li ho divisi semplicemente dal giorno del ritrovamento. Perché ogni bottiglia ha una storia a sé, giustamente, per fortuna. Certo, ci sono dei messaggi, il messaggio più semplice è: chi trova questo messaggio, per favore mandi un'email, una telefonata a questo numero. Poi ci sono quelli belli, che sono i messaggi d'amore, messaggi anche di gente che ha lasciato la propria donna e affida il suo dispiacere e la sua disperazione al mare, ce ne sono di tutti i tempi, battute, scherzi, c'è un po' di tutto. E tu rispondi a questi messaggi? Allora, tutte le volte che c'è o un telefono oppure un sito internet, io gli rispondo. molti vengono da fuori, gente che fa vacanze sulle navi, quindi molti sono i tedeschi che scrivono tanto, molti sono italiani, poi ci sono due ragazzi che tutte le volte che vanno in Jugoslavia partendo da Ancona mandano un messaggio, sono tre volte che ci vanno e tre volte che io trovo il messaggio. No, non ci credo. Sono cose più o meno assurde, sì. Come se il mio amico Piero che viene con me, che la nipote è andata a fare una gita scolastica ad Ascoli Piceno, ha mandato un messaggio e il nonno l'ha trovato dopo un mese e mezzo. È fantastico, dall'amico di penna all'amico di bottiglia. Sì, sono storie stranissime, hai capito? Forse il dio Nettuno ci aiuta un po' su queste cose. Roberto, rimani lì, ascoltiamo un attimo insieme le informazioni per chi sta viaggiando e poi entriamo ancora tra i tuoi messaggi. Mine vaganti. Messaggi in bottiglia in questa giornata, in questa puntata di Mine Vaganti dedicata alla lentezza. Aspettiamo le vostre indicazioni, i vostri cambiamenti, le vostre scelte per rallentare nel vostro quotidiano. Cosa fate o cosa avete fatto? 349-238-6666 per dircelo via SMS oppure il numero verde 824-0024. Con noi Roberto Regnoli del sito messaggidalmare.com. Da 5 anni passeggia lungo le spiagge delle Molise, delle Puglie, alla ricerca di messaggi in bottiglia. Ne ha trovati più di 350. Roberto, ma ti emozioni ancora quando vedi quella tra le onde, quella bottiglia con un tappo e con dentro un foglio di carta? È sempre un'emozione trovare qualcosa, perché c'è il gusto della scoperta. Sono sempre stato un ricercatore, per cui ho cominciato fin da piccolo con la ricerca delle bottiglie, delle tappini, delle bottiglie, dei pacchetti di sigarette, quindi sempre un'emozione trovare un messaggio dentro una bottiglia. E c'è per cui non sappiamo e non si sa mai quello che ci aspetta dal messaggio. Ecco, c'è il messaggio tra questi 350, quello che comunque ti porti nel cuore, che più ti piace leggere o rileggere? Certo, c'è un messaggio, è il numero 13, è uno dei primi messaggi, che è un messaggio d'amore, che sono quelli più belli, che se volete ve lo posso anche leggere, perché a furia di leggere l'ho imparato a memoria. Certo, grazie. Amore, sono seduto sulla spiaggia a guardare l'immensità del mare, che in questo momento è l'unica cosa che mi dà tranquillità, e nonostante la sua grandezza è un granello di sabbia a confronto all'amore che provo per te, ma tu tutto questo non l'hai mai capito. Sono qui per dirti addio. Ho scelto questo modo, sai, perché ogni volta che ti parlo l'unica cosa che riesco a fare è stringerti fra le mie braccia e dirti ti amo, nonostante tutto il male che mi hai fatto. Ho scelto questo modo, sai, perché ogni volta che ti parlo, poi non me lo ricordo più, vabbè, perché è molto lungo. Già eravamo molto felici per questa interpretazione. A questo hai risposto? Questo non c'è né l'indirizzo né la data né il nome di chi lo scrive. Voleva evitare, capito, ripensamenti probabilmente, quindi ha chiuso così, mettendo poi il tappo con la bottiglia. Molto bello che potremmo chiudere con questo: l'età non ti protegge dall'amore, ma l'amore di sicuro ti protegge dall'età. Fantastico. Ovvero bisogna essere sempre innamorati, rimanere innamorati per rimanere giovani. Roberto, grazie davvero. Ricordiamo ancora il sito per andarsi a leggere anche i messaggi, perché certo, sono tutti scannerizzati, scansionati e messi appunto online, e messaggidalmare.com. Ciao Roberto, grazie e buona caccia. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male. e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Rallentare il ritmo è un po' anche lo slogan di Bruno Contigiani, ospite qua in studio oggi a Mine Vaganti. Lui di vivere con lentezza, e questa parola lentezza che insomma ha un suono strano però dirompente, fortissimo, perché sì, è un suono, c'è voluto del coraggio a tirarla fuori, perché i lenti sono considerati un po' delle persone di serie B, no? Lo erano perlomeno. Oggi invece ci sono i profumi, i formaggi, tutto un po' slow. Sì, però credo che lentezza sia più ampio come termine, vuol dire di più. Ecco, stanno arrivando già un po' di messaggi, per esempio ci chiedono: lento vuol dire accurato e preciso? Sì, vuol dire anche una persona gentile, che vive il presente, che pensa agli altri, che tiene in considerazione se stesso, gli altri e l'ambiente. Ecco, però è da privilegiati vivere lente, vuol dire, che ne so, avere un buon conto in banca, vuol dire poterselo permettere, è una qualità della vita che puoi raggiungere solo se hai determinati requisiti? Ma io credo che un approccio lento sia anche delle persone che, diciamo, meno fortunate sul piano economico, nel senso che poi se uno ha la forza e il tempo di guardarsi, le cose più belle sono gratuite, cioè sono il benessere gratuito, il tramonto, il mare, la brezza che un pochino vaporizza l'acqua del mare, una foresta, l'erba, sono cose gratuite, sono lussi gratuiti che si può permettere chiunque. Dopodiché gli altri magari cercheranno di accumulare, cercheranno il benavere, io credo, quelli che tutto sommato sono benestanti più che il benessere. Continuiamo a parlare dei comandalenti, queste indicazioni che hai fatto tu, le vivi sulla tua pelle, però le hai consigliate anche agli altri sul tuo libro. Facci proprio degli esempi sul come quotidianamente si può vivere questa lentezza. Ma i comandalenti innanzitutto sono una pensata del mio amico Renato, devo dirlo subito, perché se no questi derivano dal fatto che la gente ci chiedeva da che cosa bisogna cominciare, come faccio. E quindi l'idea è stata proprio quella di dire: guardate che basta fare dei piccolissimi gesti, per esempio quando entrate in un bar salutate il barista, ringraziatelo dopo che vi ha dato il caffè, salutate la gente che c'è vicino a voi, parlate con la cassiera, se siete in coda in un supermercato parlate con quello davanti al posto di spaccargli le caviglie con il carrello. Quindi sono regolette, diciamo, di buon senso, che però sono abbastanza difficili da seguire se non si è presenti, se non si cerca di vivere quello che stiamo facendo. La vostra lentezza al 349-238-6666 per farlo via SMS. Voi come vivete il vostro rallentamento, la vostra ricerca di tranquillità? 824-0024 se invece volete raccontarci esperienze via telefono. Ugo, la cassa integrazione ti è passata più lentamente o più velocemente con questa esperienza che stai facendo? Più lentamente. Ciao a tutti. Ciao. Bella storia quella di Ugo Ghilardi, che insieme all'amico Manuel Ardenghi stanno attraversando tutto l'arco alpino a piedi. Sono circa 2000 chilometri? Esattamente, se i conti li facciamo alla fine. Per il momento ne abbiamo fatti 1300. Uh-huh. E ce ne rimangono ancora 500 da fare, ancora una ventina di giorni. Pensiamo di tornare entro la prima decade di settembre, primi 10 giorni, vediamo un po' il tempo, anche perché in questi giorni abbiamo preso tanta acqua. Anche preso noi, tanta... però ne eravamo al coperto, sì. Insomma era più facile. Guarda, arriviamo la sera che siamo lavati proprio... lavati, per cui un'esperienza anche quella era già calcolato. Sì, lo immagino. Però Ugo allora già ha qualcosa di folle, ma è anche il suo fascino, no? la scelta di fare questa lunga attraversata. È bello anche l'incipit iniziale, nel senso che voi siete in cassa integrazione, vi siete trovati con questi mesi a disposizione, avete la scelta: rimaniamo a casa a piangerci addosso o invece diamo una svolta? Avete scelto la seconda opzione. opzione? Abbiamo scelto la seconda opzione perché poi la seconda opzione è nata dall'inizio dell'anno, da un allenamento, da una ricerca, allenamento costante, quasi quasi tutti i giorni, un'oretta, mezz'oretta, magari alla domenica le tre orette sulle prealpi aerobiche. E poi una ricerca sui libri e in internet per cercare un percorso rimanendo in Italia. In pratica il GTA che parte da 20 miglia percorrendo le Alpi Marittime e le Alpi Cozze arriva infine in cima al Piemonte. E poi seguendo successivamente l'Alta Via 2 e l'Alta Via 1 della Valle d'Aosta e poi sentendo i malgari, sentendo i ristoratori, se non fai questo sentiero più che un altro. Qualcosa avevamo, ma non tutto il percorso. Comunque già eravate appassionati di montagna? Sì, sì, sì. Noi la nostra passione, proprio la nostra montagna è la passione, sia con Manner che con altra compagnia, i nostri amici che spesso e volentieri andiamo sulle prealpi aerobiche, sempre tornando a casa la sera, non stando via nei rifugi. Ma sai, la cosa strana è che di solito uno pensa alla montagna e pensa alla direzione verticale, il vostro invece è un po' un percorso più orizzontale, perché è questo lungo attraversamento, sì. Quindi è bella anche come idea. E tantissimi incontri, che anche questo è il valore della lentezza, dell'andare a piedi ti porta a frequentare, a conoscere le persone. Sì, sì, personaggi che tutte le sere nei rifugi o nei bivacchi, personaggi che facevano altri tipi di esperienze, non so, del GR52 che attraversa la Francia, va fino a Ginevra, altre il giro del Mar Guareis, persone che facevano il giro del Mar Guareis o dell'Argentera, percorsi che si possono fare in una settimana, il giro del Viso, il giro del Monte Bianco, abbiamo trovato tanta gente, tanti racconti nuovi, esperienze nuove. E dormite nei rifugi sempre? Allora, dormiamo nei rifugi, dormiamo negli alberghi, abbiamo dormito nei bivacchi, cioè ogni sera noi abbiamo fatto la scelta, un pasto al giorno, alla sera, e dormiamo bene, e durante il giorno percorriamo dei giorni 15 chilometri, bisogna vedere i dislivelli in salita e in discesa. Qua siamo nelle Dolomiti, viaggiamo molto di più, facciamo 25-30 km al giorno, è molto più scorrevole, molto più, sono ciclabili. La parte più dura è stata la parte iniziale, la parte delle Alpi Marittime, che è la parte più dura, è stata la parte più dura. Immagino. E Ugo, vi manca il lavoro? No, non ci manca il lavoro. Non ci credo. Siamo un po' allergici al lavoro in questo periodo. Ecco, però cosa succederà poi? Finirà questo viaggio? Ripartirete o poi, insomma, vi troverete nella vostra quotidianità? E ci state già pensando a quel momento o state rinviando certi pensieri? Dei progetti, facendo questo giro dei progetti, ci sono e anche delle proposte. Però non è che ne posso parlare perché no, assolutamente. No, per quello, perché a casa c'è mia moglie che mi sente, non vorrei che mi chiudesse fuori, capito? Però ci sono dei progettini e anche delle proposte interessanti da valutare. Poi torniamo e poi valutiamo. Va bene, adesso ti passo Manuel, così. Dai, così salutiamo anche Manuel. Sì, allora, Manuel Ardenghi, che insieme a Ugo Ghilardi stanno facendo questa attraversata. Sono di Lonno e di Nembo, quindi comuni bergamaschi. Ciao Manuel. Sì, pronto, ciao. I piedi stanno bene, sì. Sì, sì. Ormai vanno da soli, si può dire. Tra l'altro oggi parliamo di lentezza qui a Mine Vaganti, che è la vostra ricerca quotidiana. Voi dovete andare lenti, perché appena tentate magari anche di accelerare un po' può ricadere su di voi questo sforzo eccessivo, no? Sì, effettivamente, anche perché andando lenti siamo partiti proprio volendo andare lenti, così possiamo anche gustare il panorama, possiamo sentire gli odori. Certo, è molto meglio piuttosto che correre. E perdere tutto quello che si può vedere. Insomma. E poi avete tempo anche per aggiornare quasi quotidianamente il vostro blog. Diamo l'indirizzo, perché potete. E ci sono anche tantissime foto, soprattutto degli incontri con le persone. B di Bologna, Genova, Taranto, ancona.wordpress.com. È un blog che viene aggiornato strada facendo, quindi sembra quasi di viaggiare con voi. Grazie davvero Manuel, grazie Ugo e buona camminata. Mancano 500 chilometri più o meno? Sì, più o meno mancano ancora 500 chilometri da compiersi nel tempo massimo di un mese, poi dipende sempre dal tempo che si trova, sì, e sì, un po' gli imprevisti. Comunque meno male il tempo previsto è quello. Ma l'arrivo è previsto dove? Qual è l'ultimo? Da dove siete partiti e dove arriverete? Così? Noi siamo partiti da Ventimiglia. Ok. E percorrendo l'Arco Alpino la tappa d'arrivo è Trieste. Ah sì, un classico. Certo, insomma mi sembra giusto e lì completate l'arco. Grazie davvero, ciao. Grazie ciao voi, ciao grazie. Manuel. Mine vaganti. Cuore mio da fior a fior, con dolcezza e con amore, vai tu per me. Che la mia felicità vive sol di realtà, vicino a te. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto. Voglio vivere e goder la via del monte, perché questo incanto non costa niente. Beh, direi che insomma voglio vivere e godere, potrebbe essere questo anche uno slogan di chi sceglie di vivere con lentezza. Bruno, arrivano un po' di messaggi, insomma questa cosa delle che può apparire, può sembrare quasi una provocazione, una vita da privilegiato, invece è proprio un atteggiamento quello di scegliere di vivere con più tranquillità. E cioè uno può nella frenesia sì, giornaliera del dover fare conciliare il lavoro, la casa, la famiglia, i figli, si possono trovare spazi di... dipende soprattutto dal fatto se uno vive bene oppure no. Se uno vive bene correndo può continuare a correre, anzi può anche accelerare. Se invece non si trova bene, allora quello che diciamo è che si può. Quindi si può, a partire dal tempo libero, con gli amici, discutendone, capendo e inseguendo magari i propri sogni, decidendo magari di guadagnare un po' meno e di fare quello che ci piace. Ecco, si può. A te non manca la vita che facevi una volta, quindi l'adrenalina, la frenesia del tuo ruolo, del tuo essere manager, delle tue giornate da 36 ore, e non ti manca nulla di quel periodo? No, non mi manca, anche perché mi ero reso conto che così non sarei potuto andare avanti. Onestamente devo dire che quando organizziamo la giornata della lentezza praticamente raggiungiamo quei limiti, però dura poco, perché per far rallentare gli altri e per organizzare qualche cosa di lento bisogna correre, un assurdo ma un po' così. Tra l'altro in Vivere con Lentezza, nella quarta di copertina, ci sei tu vestito da vigile urbano, cosa stai combinando? Lì sto dando le multe a Union Square ai passanti che camminavano troppo velocemente. Siamo stati a New York e per gioco fermavamo, intervistavamo le persone, gli chiedevamo del loro rapporto con il tempo, se erano contenti di come stavano vivendo, e per gioco gli davamo la multa, gli leggevamo anche i comandamenti in inglese. Ecco, hai provato anche a Milano a multare, sì, le persone? Abbiamo fatto a Milano. Qual era la reazione? Ma devo dire, i milanesi sono un po' nervosi, cioè i newyorkesi magari non ti danno retta, ma se ti danno retta ti dedicano molto tempo, si mettono a giocare con te e così via. A Milano magari c'è stata un po' di reazione nervosa all'inizio, però devo dire Milano è la città da cui siamo partiti e anche un po' è stata assieme a Pavia, perché poi è un bilanciamento tra Milano e Pavia, è da lì che sono venute un po' tutte le idee di comunicare questo messaggio di lentezza. E provare per credere, i primi effetti per chi rallenta davvero sono, e ne elenchi alcuni, la fine del continuo lamentarsi, questo sì, è bello, cioè il questo vivere... è importante, è un approccio che la gente dovrebbe imparare un po' ad avere, cioè quando due persone si incontrano uno chiede all'altro come va e l'altro gli dice male, poi subito c'è un rimbalzo, si arriva al malissimo, si arriva alla catastrofe. Invece la prima cosa proprio è di smetterla, perlomeno di non cominciare a lamentarsi. E poi c'è la parola riscoperta che salta fuori tante volte, la riscoperta dell'allegria, la riscoperta della gentilezza, la riscoperta del rispetto, quindi cose che abbiamo dentro di sì, noi. Sì, cose che abbiamo, perse. Cose che se proviamo a fare praticamente ci tornano con un rimbalzo di energia da parte degli altri, cioè nel senso che se tu saluti una persona per strada, questa ti risponde, anche se tu non la conosci, ricevi un messaggio positivo da questa persona, quindi si tratta di fare il primo passo. passo, le persone sono solo lì che aspettano in qualche modo di essere consultate, di essere avvicinate, di essere un po' rallegrate. Tu hai fatto una scelta forte per vivere la tua lentezza, perché hai cambiato totalmente vita, si possono fare anche scelte meno radicali, sì. Immagino, e ne hai conosciute, ne hai frequentate, sì, devo dire... ne hai incentivate. Sì, devo dire che incontro quotidianamente dei giovani che per esempio decidono magari di fare part-time, di fare la babysitter. C'è una ragazza che lavora con noi, Muna, che per esempio per mantenersi fa la babysitter perché lei vuole diventare una progettista nel campo della cooperazione internazionale o comunque nel campo del non profit. Ci sono altri che hanno abbandonato il lavoro di manager, ci sono degli artigiani che lavorano solo quanto gli basta per poter vivere in modo dignitoso, quindi non hanno bisogno di rincorrere l'ultimo telefonino in commercio. 349-238-6666 per raccontarci il vostro rapporto con la lentezza o le vostre scelte lente, cosa che potete farlo anche attraverso un numero verde 800-24-0024. Continuiamo a parlare di lentezza e lo facciamo con un animale che è un po' l'emblema di questo andare piano. Asino, dal latino asinum, che significa tipo cavallo, e dal greco asinos, che in latino vuol dire asinum. Vuol dire asinum. L'asino è un bracciante forte e nobile, peloso, valoroso e schivo. L'asino è bello, io gli voglio bene. Fronte ampia, quoziente medio, froge larghe, mascelle stese, pelo ampio, un gran bel garrese. E come Rabagliati ricomincia un raglio, primo segnale di un processo in atto. E dopo maiale, mai apposti, malfatto, asino. Anzi, prima, perché A viene prima da M. A meno che in inglese Donkey viene prima di Pink, cioè Mayakovsky uguale. Problema è malfatto. Chi l'ha detto che l'asino è stupido? Chi l'ha detto che è l'ombrico un verme? Chi l'ha detto che la scala è ripida? Qualcuno, evidentemente, che non c'è mai salito con un asino. E chiama lo scemo. Vive solitario e o in piccoli sciami di 2-3 individui, oppure di miliardi di individui, ma non riesce a raggiungerci. E chiamalo scemo quest'asino, e c'è chi grazie all'asino ha cambiato completamente vita. Anche lui faceva il manager per una multinazionale, ha corso, la sua carriera gli ha permesso di correre, di raggiungere il top delle aziende in cui lavorava, poi ha detto alt, fermi tutti, ha guardato l'asino e si è dedicato a loro, e adesso fa onoterapia, che è la terapia con gli asini. Diamole benvenuto a Damiano Biscossi. Ciao Damiano, buon Ferragosto. Ciao, grazie Federico. Se ti danno dell'asino? Non mi arrabbio. Anzi. Sorrido. Allora, non potevamo non metterti in questa puntata. Tu ti sei proposto, ci hai iscritto alla nostra casella minevaganti@radio24.it parlando proprio di lentezza, perché l'asino ha i suoi tempi e tu ti sei adeguato a questi tempi. Sì, corretto, diciamo che in segreto, piano piano, anche quando appunto ricoprivo il mio ruolo di manager nella multinazionale, negli ultimi 14 anni ho fatto formazione proponendo appunto l'asino come forma di rallentamento dei ritmi quotidiani, no? Sia validi per me come terapia, sia per le altre persone che appunto si sono avvicinate a questo mondo. Ovviamente no, parliamo di noi, ma si può anche parlare ovviamente di disagio, no? La parola forse onoterapia non è la più corretta, perché parlare di terapia, no? Sì, si fa lega molto alla... esatto. Però sicuramente è una cosa che fa sicuramente bene, no, alle persone che appunto frequentano queste esperienze, e sicuramente anche, no, nel campo del disagio. Quindi questo mi sento di testimoniarlo. Ora la prova poi scientifica sarà chi, no? Ovviamente fa questo di mestiere. Ma Damiano, tu, a parte che hai un sito bellissimo dove ci sono anche dei divertenti video, c'è tutto legato al tuo mondo, che è donkeyproject.it, però com'è stato l'incontro con questo animale? Perché proprio l'asino? Allora, innanzitutto è stato fortuito. Io, col fatto che viaggiavo con le multinazionali, spesso mi fermavo in vari paesi, quindi Stati Uniti, Sud America, anche in Europa, insomma Cecoslovacchia e così via, e seguivo diversi corsi di comunicazione uomo-animale fondamentalmente. Poi 14 anni fa mi ha chiamato un amico, mi ha detto: vorrei utilizzare l'asino per fare dei corsi di formazione, lì per lì ho sorriso, così come quando tu mi hai detto asino, sì. In questo modo, e in realtà ho visto che proprio partendo col primo corso di formazione, quindi creando un format che viene ormai ripetuto da anni, e niente, c'erano dei benefici grossi per persone soprattutto che andavano a 2000 come me ovviamente, e che potevano in qualche modo riapprezzare gesti semplici, no? E esercizi semplici fondamentalmente, quindi di rilassamento o di contatto o di comunicazione del corpo non verbale, quindi no, siamo sempre portati a parlare, insomma, no? Spesso magari il silenzio aiuta in alcune situazioni, no? Sì, certo. E quindi di conseguenza l'asino è stata una riscoperta. Ovviamente l'asino era già con noi, insomma, appartiene alle nostre radici, se pensiamo, no? Dormiva sotto, no? Al piano terra nei vari casali che c'erano distribuiti in tutta Italia, che adesso sono abbandonati, magari li troviamo in giro anche in Emilia Romagna, e adesso, insomma, in qualche modo ritorna a noi, no? Sono le nostre radici. Poi se pensiamo anche al discorso religioso, no? Il bue e l'asinello che tenevano caldo il bambino Gesù, sì, fondamentalmente, no? più di un simbolo, certo. E stavo leggendo tra i corsi che avete, gli eventi che avete in programma, e per esempio c'è una due giorni, forse c'è già stata quella sentirci con l'asino, però dall'idea del titolo, e un'altra invece che sarà in provincia di Brindisi, intitolata L'asino mediatore. Nella relazione, nella comunicazione non verbale, nel rapporto con la natura, nell'ascolto di sé e degli altri. Quindi l'asino, esatto, che può diventare veramente emblema, che può diventare strumento per comunicare meglio. Esatto, l'evento verrà fatto a casa Cilona. Cilona in pugliese significa tartaruga, ovviamente. L'obiettivo appunto di questa esperienza è quello di mettere diversi tipi di esperienze, quindi non solo l'asino, ma ci sarà anche danza terapia, tai chi e così via, con psicoterapeuti e quant'altro, dove si farà un'esperienza sul sé fondamentalmente, no? Sull'individuo. Ovviamente l'asino è un mediatore, quindi ci aiuta a raggiungere noi stessi fondamentalmente, a rallentare i nostri ritmi, quindi tutto quello che facciamo correndo in qualche modo in quella esperienza, no? Ci permetterà di rallentare e vivere le cose in modo diverso. Ecco, ma l'hai portato l'asino in una qualche multinazionale recentemente? Cioè, quando adesso tu fai ancora corsi ogni tanto, ti proponi come formatore, quindi hai rallentato anche tu, però quella è la tua professione. Quando ti presenti con l'asino, eccolo l'asino che lo sentiamo. Ok. Ecco. Ha sentito che siamo in trasmissione. Certo, sai, perché mi è un po' vanitoso. Lento, ma di utile che sta nel giardino del mio amico. Tra l'altro, chi ha i cani e chi ha l'asino. Tra l'altro l'asino ogni tanto calcia anche, quindi che anche nelle relazioni ci sta, credo che anche il calcio dell'asino abbia qualcosa da insegnare. Beh, se non si rispettano, no, gli spazi dovuti, in qualche modo il calcio ci sta, anche se Gasparino in questo caso è un ottimo giocatore di football, che pallone regolarmente qui, quindi usa i calci solo per quello, per fortuna. Ecco, quindi hai cambiato la testa a qualche manager grazie all'asino? Beh sì, parecchie persone, diciamo, hanno aderito ai corsi, e chiaramente quando arrivano queste persone sono abituate ad andare a 2000, io so benissimo quello che significa perché vengo da quel mondo, ovviamente arrivano scettici, rigidi e quant'altro, invece poi l'approccio appunto con l'asino in qualche modo gli permette di riscoprire una parte di sé che qualche volta, no, uno dimentica. Pongo sempre l'esempio del telefonino, io come manager sono stato ore al telefonino, no? E spesso mi capitava in strada che facevo chilometri di strada, no? E parlando al telefono senza rendermi conto dove stavo andando, no? Poi riattaccavo lo sguardo e mi rendevo conto che era una cosa pericolosa. Sì. Ecco, questo con l'asino, no? Però adesso hai il raglio dell'asino come suoneria, confessalo. Esatto. Vedi? Grazie davvero Damiano Biscossi, ricordiamo ancora il sito www.donkeyproject.it. E puoi volare su questo mare, di noce che è la tua fragilità, lo puoi capire, fallo senza fretta e prenditi il tempo, perché la tua lentezza è l'equilibrio per restare in piedi. Al 349-238-6666 ci scrive Cristina da Cuneo e dice è una bella verità dire che chi è lento è di serie B, ho la sclerosi multipla e mi accorgo di come gli altri vivono la mia non velocità, ma io non lo vivo come un problema, sono felice lo stesso. Un bacio a te Cristina, i vostri messaggi e le vostre chiamate all'800 24 00 24. Aurelio da non lo so, ciao Aurelio. Ciao. Ciao, da dove chiami? Ciao. Dall'isola della Maddalena. Attenzione, quindi già un posto dove è facile vivere lentamente, credo. Tu vivi lì o sei in vacanza? No, vivo qua. Sono del Lago Maggiore, ma però è dal 74 che ho fatto questa scelta di vivere su questa meravigliosa isola. Mm-hmm. E dove mi trovo benissimo. Niente, volevo anch'io dire qualcosa sulla la riduzione della velocità della vita, no? Siccome mi piace così essere curioso, sì. Niente, studiando un po' economia mi sono accorto che il sistema keynesiano dell'espansione della velocità ci sta portando alla rovina. E quindi l'ho tradotto anche nella mia vita quotidiana, questo principio, e come diceva un signore, no? Sì. E ho cominciato, quando ero alla cassa, dopo aver fatto la spesa, magari passava una persona con 3 prodotti, io ne avevo 10, la lasciavo passare, e vedevo che questa persona mi faceva il sorriso, ma non solo quella, diverse persone. E mi sono abituato a rispettare le persone, a salutarle. E c'è sempre un ricambio. Prima mi guardano con sospetto, ma questo qui è via di testa. Cosa vuole? cosa vuole? Poi invece si aprono ed è una soddisfazione immensa. Quindi Aurelio, il tuo cambiamento di questo sta proprio negli atteggiamenti quotidiani? Non solo negli atteggiamenti quotidiani. Adesso fortunatamente sono in pensione. Sì. No? Sono anch'io alle spalle dello Stato. Ok. E però diciamo che mi trovo bene. Ho ridotto anche tutti i miei bisogni superflui. Invece di comprare 3 paia di scarpe me ne compro uno. Invece di comprare 5 pantaloni me ne compro uno. E stai meglio? Tanto lo stesso. E sto molto molto meglio. Pensa che il mio sogno qua alla Maddalena, e lo sto cercando di trasmettere politicamente, è quello di non far girare più le scatole di lamiera, no? Sì. E far girare solo i mezzi pubblici. Siamo in una piccolissima isola, tu sapessi quante macchine ci sono. Uno per fare 300 metri deve prendere la macchina, metterla prima, accelerare, frenare, scende in piazza, non trova il parcheggio, io a piedi arrivo giù 5 minuti prima degli altri. È tutto assurdo, è sì. Un'assurdità. Però insomma, guarda, in questo momento sono qua col mio gattino, no? A proposito, il signore parlava dell'asinello, sì. No? È il mio, io ho imparato da lui, lui mangia, poi si siede, si sdraia al sole, no? Si rigira, poi vado fuori a trovarlo, al mattino presto quando mi alzo piano piano, ho 2 merli che vengono a mangiare le briciole del pane alla mano. No, guarda, capiamo, perché è quello che scrive anche Bruno nel suo Vivere con lentezza, che alla fine si prende anche consapevolezza di quello che c'è attorno, la natura, l'ambiente, e si impara a godere delle non delle piccole cose, ma delle cose che ci sono. Grazie Aurelio, e insomma, in bocca al lupo per la tua attività politica lì sull'isola contro le automobili. Ciao e buon Ferragosto. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Vivere con lentezza, e c'è un altro mondo, c'è un'altra entità che voi portate avanti, Bruno, nella sì, vostra attività, che è il bar. Sì, il bar come luogo, come erano una volta, il luogo in cui ci si trovava, in cui la gente diceva che si innamorava, che si sposava, che aveva perso il lavoro, che aveva trovato un nuovo lavoro, un luogo in cui ci si può trovare per conoscersi e magari attraverso la cultura rivelare quello che c'è dentro di noi. E quindi leggevamo 4 libri al bar. Leggiamo 4 libri al bar, che è una proposta che fate a settembre, mi pare. Sì, dal 22 al 30 settembre in tutta Italia, in tutti i bar d'Italia, si va lì, si porta il ci si mette d'accordo naturalmente col barista, si porta il libro che si ha sul comodino, senza manie di protagonismo, e si invitano le persone a leggere assieme a noi e a confrontarci attraverso un libro. E oggi avete fatto una sorta di anteprima in questo giorno di al Barnichi a Pavia. Barnichi di Pavia. E c'è Ella là al bar. Ciao Ella. Ciao Federico. Tutto bene? Tutto bene, sì sì sì. Allora, noi siamo su uno spartitraffico praticamente tipo Cinar. Nel senso che il bar, ci sono i tavolini, il bar ha uno spazio fuori, quindi nel traffico di Pavia, che speriamo insomma sia limitato in questo giorno di Ferragosto, e si sentono le campane, quindi è proprio il quadretto perfetto. Ed è arrivato qualche lettore? Sì, sì, sì, siamo una decina, chiaramente siamo meno degli altri mesi, ma siamo contenti, ecco, l'importante è incontrarsi. Ecco, perché il libro e il bar diventano una scusa, un pretesto per stare insieme, per conoscersi. E uno che libro deve portare? A quello che sta leggendo in quel momento, o quello che ha amato di più, che l'ha fatto sognare, pensare, riflettere. E quindi, insomma, diventa anche questo, diventa uno scambio di informazioni, di emozioni, di suggestioni. Scambio lento, perché poi uno va a leggere le proprie righe preferite. E possiamo fare una prova di lettura in diretta con il sottofondo di queste campane? Sì. Vuoi che ti passo Emilio, Renato, cosa vuoi che ti leggiamo? Scegliete voi, siete voi lì. Che libri avete? Io ho Neve di Maxence Serpin. Dai, leggici proprio per darci un po' anche a noi una suggestione di quello che sta accadendo lì, qualche riga. Allora, è un breve romanzo che si svolge in Giappone. Sì. E dice: padre, disse il mattino del suo compleanno, voglio diventare poeta. Il padre rispose: la poesia non è un mestiere, è un passatempo. Le poesie sono acqua che scorre, come questo fiume. È esattamente quello che voglio fare, imparare a guardare il tempo che scorre. Fantastico, insomma, non siete quindi, adesso te la dico brutalmente, come parlo anche con Bruno, come mi ha detto un ascoltatore, come ha scritto via SMS, cioè non siete una banda di scoppiati, nel senso, credete veramente in questi ritmi più lenti, però più veri, Bruno? Sì, siamo stati, è vero, la gente si conosce, rifrequenta il bar, ci sono dei baristi gentili, come Fiorenzo, che ci mettono a disposizione il bar, perdono qualche cosa, diciamo, dal punto di vista del guadagno, però sono anche lieti di fare qualche cosa per gli altri, quindi no, assolutamente nessuna idea di andare in pensione con la testa. Ecco, ma se ci fosse qualche barista interessato a entrare nella vostra rete per settembre, basta... Sì, si mette in contatto con noi attraverso il nostro sito, e in tutta Italia si può fare benissimo. Noi mandiamo le locandine a quelli che vogliono partecipare e poi ci mettono la data e l'ora in cui hanno deciso di fare la manifestazione. Ella, grazie davvero, salutaci tutti gli amici, grazie, che sono lì voi al bar con i loro quattro libri. Ciao e buona grazie, domenica. Grazie, arrivederci, ciao. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar. Uno si è impiegato. Ci teniamo questi amici al bar per salutare e ringraziare Bruno Contigiani, autore del libro Vivere con lentezza, ma anche ideatore di questa politica, di questo movimento culturale. E Bruno, siamo in radio, parlare di silenzio in radio sembra paradossale, però il silenzio è un'altra parola che ha importanza, vero, nel vostro cambiamento, nel vostro desiderio di cambiamento. Sì, avere il coraggio, la voglia, il tempo per ogni tanto stare in silenzio, cercare il silenzio dentro di noi, non sfuggirlo, e pensare che anche quando si cammina si può camminare al nostro interno, cioè fare questo viaggio interiore, quindi avere il coraggio di affrontare dei momenti di vuoto, dei momenti in cui non abbiamo niente da fare, senza aver paura di dirlo e senza aver paura di non fare niente. Ma Bruno, in conclusione, ma i vecchi colleghi che ti vedevano lì come manager attivo tutto il giorno, magari era anche il capo, magari era quello che arrivava in ufficio arrabbiato e stravolgeva le vite di queste persone, ora cosa ti dicono? Ma devo dire, sono contenti quando mi incontrano, sono contenti anche del successo che ha avuto questa idea, anche se qualcheduno non ci crede e ogni tanto devo confessare che io corro ogni tanto. Beh, grazie oggi per essere corso da noi. Grazie a te Federico, grazie a voi di Radio 24. Alla prossima, buon Ferragosto ancora. Mine vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, questo è Mine Vaganti, la seconda parte. Come sempre ci tuffiamo nella cronaca locale, facciamo una rassegna stampa settimanale alla ricerca delle notizie più belle che commentiamo con opinionisti. Oggi è il turno di Leonardo Manera. C'è un aforisma di Anatole France, che è un autore francese dell'Ottocento, che dice: fra tutte le stranezze sessuali la peggiore è la castità. Condivido. Perché secondo me il sesso è importante, perché in questo periodo di globalizzazione il sesso è rimasto una delle poche cose artigianali che si possono fare. Non nel senso che si fa da sé, anche se... Non c'è bisogno di ironizzare, comunque... No. Anche se a volte capita, diciamo. Capita spesso. Capita quasi sempre, è inutile negarlo. Ma è artigianale, perché non sapendo come fanno l'amore le altre persone, uno deve inventarsi il proprio modo di fare l'amore. Per noi, inteso come esponenti maschili del genere umano, è più difficile rispetto agli altri mammiferi. Questa è una cosa vera che ha detto anche Piero Angela, Super Quark. Perché quasi tutti gli altri mammiferi maschi hanno all'interno della sessuale un ossicino che si chiama os penis, oppure baculum, oppure con un termine tecnico aiutino, che sostiene l'erezione, a sua volta sostenuto da un muscolo. Cioè l'altro animale maschio, non uomo, fa il muscolo fa erigere l'ossicino e il gioco è fatto. Bello, facile. L'uomo no. L'uomo ce l'ha disossato. Da Zeliga, Mine Vaganti, Leonardo Manera. Ciao Leonardo. Ciao Federico, questo purtroppo è un problema vero dell'uomo disossato. Molti mammiferi ce l'hanno questo aiuto all'interno. Io ho visto quello, proprio credo in un documentario di Piero Angelo, ho visto quello dei mammut, che avevano, ed è una cosa enorme, quindi sostiene molto. Vabbè, allora ti abbiamo chiamato per parlare di cronaca locale. Tra l'altro credo che la cronaca locale di Avellino, dove ti trovi in questo momento, domani parlerà di Leonardo Manera. Hai perso le valigie? Sì, sono partito da Linate e non mi hanno imbarcato la valigia, dove avevo tutte le cose necessarie per lo spettacolo. Adesso spero che arrivi, forse è rimasta a Milano, quindi dovrebbe arrivare stasera, però arriva alle 9:30, quindi non so se farò in tempo ad averla prima di fare lo spettacolo. Ho capito. Ovviamente con chi viaggiavo, con Alitalia. Allora, Alitalia è migliorata molto, diciamo. Questa sera sarai, chi lo sa, la notte bianca di Caposele, siamo in provincia di Avellino, e vabbè, ma se no improvvisi sul palco qualcosa, dai. No, Sì, solo che avevo i costumi di scena, le lenti a contatto, le parrucche, tutte quelle. Avevo anche uno scopino da bagno che mi serve per lo spettacolo, dipinto di nero. Quindi... Niente, non puoi trovarne uno all'ultimo momento. Sì, lo devo dipingere al momento di nero, perché lo uso dipinto di nero perché così è da sera e fa più scena. Ho capito. Allora, nel caso gli amici di Avellino sono avvisati, domani sera all'Italia permettendo dovresti essere a Ulst, siamo in provincia di Torino, in Val di Susa. Lì andrò in macchina, quindi dovrei correre meno rischi di smarrire bagagli. Insomma, sono le avventure estive di chi vive in viaggio, di chi fa le tournée, e oggi è la sorpresa di Ferragosto anche per te, Leonardo. Però ugualmente ti abbiamo disturbato per commentare insieme un po' di cronaca locale. Sei pronto? Scusa, dimmi. L'ultima volta che ci siamo sentiti mi sono rotto la caviglia il mese scorso. Tu dici che insomma... No, assolutamente no, sono coincidenti. La nostra collaborazione finisce qua. Allora, partiamo dalla provincia pavese. Il titolo di oggi in prima pagina è questo: il gatto Michele, proprietario di un attico a Roma, è l'eredità di un imprenditore milanese. Il micio, adottato da una famiglia di Gambolò, ci porta a casa un fondo di 250.000 euro. Sì, ma dico per inciso che ho fatto uno spettacolo anni fa anche a Gambolò. Mi ricordo che c'era nelle prime file una ragazza completamente ubriaca che mi ha disturbato per tutta la sera. Perché probabilmente era la proprietaria del gatto e sapeva che un giorno... Comunque, sentendo questa notizia, io ti dico subito che sto imparando a miagolare. Perché visto che c'è questa tendenza, insomma, a regalare attici, eredità a cani, gatti, eccetera, secondo me, e anzi, si lasciano sempre meno volentieri le eredità ai parenti, perché durante la vita si crea credine, si litiga, allora piuttosto che lasciare un parente, lo lascia un gatto. Quindi invito tutti a imparare a miagolare, ad abbaiare e farsi amici delle persone che insomma non capiscono bene con chi hanno a che fare, magari poco vedenti, nel senso che tu puoi fingerti un animale e alla fine puoi ereditare il tutto. Ok, questo è il primo consiglio. Andiamo a Grosseto invece, il Tirreno riporta sempre oggi questo titolo: va con l'escort, poi finge il furto, in una sera ha speso 1500 euro, però si vergognava di dirlo ai genitori. E magari anche il padre suo andava con la stessa escort, e quindi chi lo sa. Poi le escort sono state rivalutate tantissimo, insomma, perché il termine, adesso non bisogna più vergognarsi di andare con l'escort, perché il termine è diventato quasi un lavoro ambito, nel senso che prostituta eccetera aveva una valenza comunque negativa, invece escort ha nobilitato, come spesso si fa in Italia, no? Ha nobilitato il lavoro, e quindi se una ragazza dice da grande voglio fare la escort, secondo me i genitori possono anche essere contenti. Fa curriculum, tu dici? Fa curriculum e poi si migliora, come anni fa, il primo esempio fu quando c'erano i netturbini, che poi furono chiamati operatori ecologici, perché in Italia di solito quando non si può migliorare la condizione economica di una categoria si cambia nome. E quindi con l'escort il discorso è un po' diverso, ma comunque è stato nobilitato, comunque non bisogna vergognarsi di andare con l'escort, che comunque, rispetto a quello che dicevo prima, è sempre una buona alternativa, visto la mancanza di ossicino, a volte di sesso femminile disponibile, per così avere dei rapporti, a volte anche gratificanti, chi lo sa. Ho capito. Andiamo al resto del Carrino invece. Rimini, sempre oggi, innamorato pazzo di una commessa, arrestato, era talmente infatuato di quella commessa che passava le giornate a guardarla al di là della vetrina. Un amore che è costato caro a questo 36enne lombardo, arrestato venerdì pomeriggio dai carabinieri per resistenza. Tutto ciò è accaduto al centro commerciale Le Befane. Ecco. Che sembra già... Come veramente un paradosso. Sembra un pezzo, vero? Nel centro delle Befane ci sia una carina, poi bisognerebbe verificare se effettivamente lui guardava lei, oppure se era un feticista innamorato, che ne so, di un piumone, per esempio, di una cosa che lui vedeva lì, e quello per lui aveva un impulso erotico e sessuale molto più forte della commessa. Però si sa che le commesse vengono scelte, c'è anche la canzone di Carboni, no? Le commesse dei negozi del centro, che sono le più carine. Se a noi poveri uomini togliete anche questo, ma cosa dobbiamo fare se non possiamo neanche guardare le commesse al di là della vetrina? Quindi inviterei le commesse ad essere un po' più benevole nei confronti di noi poveri uomini e di lasciarsi guardare, purché non si arrivi poi insomma alla molestia. Degli però eccessi, certo. Un bacino ogni tanto al di là della vetrina non fa male. La Gazzetta di Mantova, questo è un caso che già avevamo seguito la settimana successiva, perché c'era un gallo che teneva sveglio l'intero quartiere. In settimana il caso pareva risolto perché il gallo era stato trovato, invece riporta questa notizia: il chicchirichì sveglia ancora il quartiere, hanno portato via il gallo sbagliato. È il classico caso italiano di mala giustizia. La giustizia si rivela un'altra volta in Italia con dei grossi problemi, non solo con gli uomini ma addirittura per i galli. Speriamo che non sia stata la decisione nei confronti del gallo innocente, non sia stata troppo dura, nel senso che è venuto altrove per 2 o 3 giorni e quando poi avranno capito che non era lui lo rimettono in libertà, insomma, che non abbia bisogno dei tempi di carcerazione preventiva come a volte succede per gli uomini. Okay. Altra storia familiare invece divertente, ce la riporta il Gazzettino, siamo ad Annone Veneto, questo è il titolo: deruba la cognata che lo fa arrestare, ha aspettato che la cognata uscisse di casa, ha derubato varie cose nell'abitazione, poi ha fatto finta che ci fossero stati ladri, però aveva rubato anche degli orologi, il tipo ha indossato uno di questi orologi, quindi la cognata ha capito subito che era stato lui. Allora lasciami dire, è un pirla questo. Perfetto. Non aggiungerei commenti. Se lo merita comunque. Il minimo, assolutamente. Mine vaganti. Ancora a Mine Vaganti, ancora con Leonardo Mannera, per commentare con lui la cronaca locale. Torniamo sul Tirreno. Leonardo a Pistoia, ricoverato d'urgenza e multato. Brutta avventura di un uomo che, in preda a un malore, aveva parcheggiato nella piazzola degli elicotteri dell'ambulanza e la mattina dopo l'hanno multato. L'hanno salvato, ma lo hanno anche multato. Questo dimostra che non bisogna avere problemi di salute all'improvviso. È una cosa che bisognerebbe cercare di evitare a tutti i costi. Invece c'è, no, c'è gente che si ostina a stare male di colpo. Questo è un brutto costume che molti hanno e vanno ad affollare i ricoveri d'urgenza e i pronti soccorso. Se proprio volete stare male, dovete stare male gradualmente, in modo da poter prendere una visita presso il vostro medico di base e prenotare nell'ambulatorio preposto ad hoc. Ho capito. L'Unione Sarda invece, la storia che è riassunta nel titolo, era donna, diventa uomo e ora è gay. Questo ragazzo è troppo indeciso, anche se devo dire che io ho avuto modo di conoscere una persona anni fa, una ragazza che era uomo prima, si sentiva donna, quindi si è fatto operare, è diventata donna, ma dopo l'operazione ugualmente era ancora confuso, perché c'era un periodo di transito ormonale, diciamo, per cui ancora non riusciva a capire bene se gli piacevano gli uomini o le donne. Probabilmente anche per lui è così, insomma, non si è ancora chiarito benissimo le idee, quindi diamogli un po' di tempo per chiarirsi, visto che poi è tutto ammesso in questi nostri tempi. Io sono favorevole a quello. Mentre il Gazzettino, ancora siamo a Venezia, il titolo: Facebook lo dà per morto ma è al lavoro. Questa è l'avventura che è successa a un coltivatore di piante molto noto in città, e vabbè, insomma, non è... succede il contrario, che uno è al lavoro, sta tutto il giorno su Facebook e quindi lo danno per morto perché non lavora, e quindi vedo tantissime persone che stanno ore e ore su Facebook evitando di lavorare. Questo è un caso contrario, quindi è lodevole. Perfetto. Probabilmente non stava più colloquiando con nessuno su Facebook, hanno detto questo è morto, invece era lì che lavorava alacremente. L'ultima notizia presa dal secolo XIX, siamo alla Spezia. Il titolo: la disavventura di un giovane, si tiene il DVD porno per 6 anni, 26.000 euro di conto, non ha più riconsegnato il film, preso a noleggio con Rocco Siffredi protagonista. Questa storia è durata più di un matrimonio. Ci sono matrimoni che durano 6 mesi, 1 anno, invece questo con Rocco Siffredi 6 anni è assolutamente un record. È costato anche quello, come una separazione, credo, però magari è stato più gratificante per lui, chi lo sa. Lode anche a lui. No, poi sai, queste cose è belle perché animano anche, no, la provincia, e pare che tutta la cittadina, insomma, sia una caccia dello sventurato cliente per capire chi sia. Vogliono dare un nome e un cognome a questo fan anche se poi vedersi un DVD sempre lo stesso per 6 anni deve essere di una noia mortale, veramente. Meglio vedere le televendite di mobili, di cucine, di altre cose, insomma. Leonardo, grazie davvero per aver commentato con noi la cronaca locale. Allora, ricordiamo questa sera forse a Caposele, in provincia di Avellino, domani invece sicuramente a Ulz, siamo in provincia di Torino, in Val di Susa. Poi continua ancora la tournée, la tua estate. E poi sono dopodomani nelle Marche, appena San Giovanni, e la settimana prossima in Trentino, in provincia di Brescia. Buona estate, allora, buon agosto. Grazie anche a te. Ciao, grazie. Ciao Leonardo. Ciao, grazie. Leonardo Manera, Mine Vaganti, ma rimaniamo nella cronaca locale come facciamo settimanalmente, e lo facciamo con la Gazzetta di Mantova. Perché? Perché la cronaca questa settimana è stata animata da una notizia che ha riempito le pagine. Siamo a Quistello e il titolo: la pornostar e il sindaco in giuria per il miglior salame. E c'è un concorso annuale molto importante dove viene premiato il miglior salame artigianale. Quest'anno c'è stato un po' di caos perché nella giuria è stata inserita anche questa porno star locale, e con noi abbiamo il caporedattore della Gazzetta di Mantova, Stefano Scansani, per commentare insieme la notizia. Ciao Stefano. Ciao Federico, ciao. Buon Ferragosto. Grazie mille. Allora, cosa succede in una redazione locale, di un quotidiano locale, quando arriva una notizia del genere? Succede l'insolito salame, nel senso che stavolta lo affettiamo finalmente in un modo diverso. Siamo degli abitué dell'affettato più tipico che c'è in questa zona, che si chiama Destra Secchia, oltre Po, è una zona senza orizzonti, e di orizzonti in ammonte, una pampa sconfinata. Quindi quando c'è qualcosa di nuovo e di ormonale, ecco che la redazione ci si ficca e ci si butta. Succede questo: Quistello, in riva alla Secchia o al Secchia, è un paese dove si fanno ottimi salami. Viene fatto un concorso, in giuria naturalmente i notabili del paese, che vanno da un qualcuno della giunta municipale, che può essere un assessore, un consigliere delegato, fino al sacerdote. Ma quest'anno incappa nella giuria dei salami anche una pornostar o pornodiva locale, la signora del Lago, che fu invitata a suo tempo a questa manifestazione dall'organizzatore, che è defunto. Quindi una sorta di omaggio, una memoria dell'organizzatore che non c'è più. e la pornostar partecipa. A questo punto si sfila innanzitutto il sacerdote, che naturalmente non ha tempo, non è stato invitato, non ha ricevuto l'invito, comunque è impegnato, e lentamente anche il sacerdote, che dice non ho mai detto di essere presente, probabilmente arriva un delegato. Insomma. Una doppia fuga, quindi? Una doppia fuga da due cose semplici, secondo me, l'ho anche scritto sul giornale. Innanzitutto dalla presenza di questa signora, signorina, che certamente è imbarazzante. Il paese è piccolo, il salame è grosso, deve essere misurato, tastato, testato, assaggiato, fettato. E poi c'è l'altro aspetto della bivalenza, della montagna di simboli che è contenuta nel salame. Naturalmente simboli erotici, simboli pornografici. È tutto bilingue, in sostanza. Tu sei un esperto anche, Stefano, di cultura popolare, cultura tradizionale, e infatti hai fatto un pezzo a commento molto divertente, che dicevi insomma che solo col salame poteva succedere, con qualsiasi altro salume no. Beh, certamente, io ad esempio sulla questione del prosciutto crudo avrei visto naturalmente qualcosa di nobile, la pancetta, qualcosa di bulimico, oppure nella coppa, che è dolce, o qualcosa di diverso sotto tutti i punti di vista, anche di genere, no? E invece il salame è virile, quindi appena c'è qualcosa che non funziona, ecco che cominciano gli imbarazzi. Ho capito. Il paese si è spaccato su questa scelta? Ma il paese in questi casi è il più simpatico che ci sia nella bassa, insomma, nel senso che non vede l'ora che succedano queste cose per uscire dal solito. Poi quando si prendono troppo sul serio queste cose, che poi sono solite, ecco che succede una piccola rivoluzione, il paese arrossisce, ma più che altro le sue autorità costituite. Poi tra l'altro la cosa simpatica, Federico, sì, tanto per dirti, no, come alla fine siamo circondati dalla bellezza e dalla bivalenza, dal doppio senso di queste cose. Ad esempio oggi è Ferragosto, in un borgo vicinissimo a Mantova, si chiamano Le Grazie, è un luogo mariano, c'è un bellissimo santuario, ci sono tutte messe, ci sono i madonnari che tra un po' vengono premiati, stanno dipingendo con i gessetti sull'asfalto, tutte messe, tutte madonne, benedizioni e rosari, e penetra in questa festa il cotechino. Chi non lo mangia non è santificato, già dalle 5:30 del mattino. Capito. Quindi c'è, no, per un attimo ho temuto la porno diva anche dai madonnari, invece no, abbiamo tenuto distante, ok, le due cose. Perfetto. Stefano, grazie davvero per essere stato qua con noi anche in questa giornata di festa per te. E Stefano Scansani, capo redattore della Gazzetta di Mantova. Ciao, buona ciao, giornata, ciao, buon Ferragosto. Ciao ciao. Siamo vivi, tutto può succedere, ora qui siamo soli, siamo soli, siamo soli, siamo soli, vivere insieme a me. Siamo soli, prendiamo questa frase di Vasco Rossi per introdurre il prossimo argomento. Parliamo di single di ritorno in questa giornata poi di Ferragosto, dove tanta gente anche torna dalle vacanze, chissà quante coppie anche che saltano, perché insomma le vacanze sono belle ma impegnative nella vita di coppia, ed è un po' il periodo anche dei single di ritorno, e da qui nasce l'idea di un sito che vuol portare i single di ritorno a vedersi, a frequentarsi, a conoscersi, uscendo però dalla piazza virtuale per entrare in una piazza reale. Un'idea che è venuta un'attrice che è qua con noi, diamo il benvenuto a Manuela Morabito, o Morabito. Manuela, non lo so, Morabito, infatti è venuto il dubbio mentre lo dicevo, scusami. Ciao Manuela. Ciao a tutti, buon Ferragosto. Allora, siamo in radio, dobbiamo darti anche un volto, insomma, in tanti ti conoscono, tu, insomma, l'ultima uscita è stata col film di Pupavati, Il figlio più piccolo, mi pare, vero? Sì, dove c'era una parte. Adesso a febbraio. E adesso invece, anche nel prossimo film ancora di Pupavati ci sarai, nella Una sconfinata giovinezza. Non andate a Venezia, lo abbiamo letto sui giornali. e poi in questo momento sto girando una fiction per Mediaset che si chiama Al di là del lago. Ecco, e però tra un set e l'altro, tra una ripresa e l'altra, è venuta questa intuizione di aprire un sito internet per i single di ritorno. Come mai? Sì, dunque. comunque, perché purtroppo l'amore insomma finisce, e allora quando anche le coppie più insospettabili poi si scoppiano, e quando si hanno 20 anni uno ha tanto tempo per uscire, conoscere, frequentare, invece quando si è un pochino più grandi, con i figli magari da separati, e con tanti impegni, il traffico, la stanchezza, che è un pochino più difficile poi socializzare, soprattutto proprio dopo la fine di un matrimonio, di una lunga convivenza. E quindi ho pensato, proprio perché non creiamo un sito che permetta a queste persone separate, o comunque che non hanno più 20 anni, ma giovani, piene di voglia di incontrare gente, di incontrarsi e tornare al corteggiamento classico, usando internet per avere delle informazioni. Quindi è nato così singlepaper.com, giornale dei single, nel senso chi è single si iscrive, sì, sul sito e condivide, quindi dice appunto sul sito in che quartiere di quale città abita e quali sono i suoi luoghi abituali. Per esempio, non so, io sono single, allora scrivo, vado sempre a pranzo in questo bar da quest'ora a quest'ora, sono lì, mi trovi lì, poi la mia palestra è questa, mi puoi trovare lì, oppure non so, accompagno mia figlia in questo posto il pomeriggio a nuotare, se vuoi mi trovi lì. Tu che abiti nello stesso quartiere, sei vicino, usi l'informazione che io condivido su internet, su Single Paper, e puoi venirmi a cercare, quindi e corteggiare, finalmente tornare al corteggiamento classico nel mondo reale, perché sennò internet, confinarci proprio in un mondo virtuale, secondo me tra un pochino quindi, diciamo così, una facciamo sorta, la fine del pesce, una sorta di caccia al tesoro, cioè uno lascia degli indizi sul dove si trova, sul dove è possibile incontrare, sì, questa persona, e poi se scatta qualcosa scatta però nel mondo reale. È stata anche di vita per quartiere, perché ovviamente c'è tanto traffico, è difficile incontrarsi, e allora può essere più comodo guardare nel quartiere chi c'è sulla piazza, diciamo così, no, chi è tornato singolare, e farlo sapere, perché se no tanta gente neanche sa che tu sei tornato single. Mentre è importante farlo sapere, tu dici? Assolutamente, appunto su single.com tu lo fai innanzitutto sapere, metti la tua fotografia perché è fondamentale, e dopo diciamo metti dove vuoi essere incontrato, nei luoghi in cui ti senti sicuro ovviamente, mm-hmm, e così è facile incontrarti, e quindi la scena da film, no, che i due della commedia si incontrano casualmente al supermercato, che succede solo nei film, può diventare realtà, perché in realtà è, diciamo, in qualche modo guidato dalle indicazioni, quindi dalle notizie condivise sul sito. Fantastico. Utile, speriamo che sia utile. Non lo so, ma essere... no, mi piace l'idea che non poteva che venire a un'attrice, cioè portare quello che succede sul grande schermo nella, certo, nella è vita, vero, reale. In è effetti, vero, un pochino è collegata. È un sito giovanissimo, ma sai già se c'è stato qualche incrocio, qualche incontro? Dunque, noi sappiamo che ci sono tanti iscritti ogni giorno, vediamo che la gente appunto si iscrive, perché si può anche scrivere un'opzione che è il muro di Giulietta Romeo, un messaggio al giorno, quindi si può scrivere come scriveva da giovane romanticamente sui muri, sul sito un messaggio al giorno, per poi in caso anche volendo scambiarsi il numero di telefono oppure delle informazioni precise, e vediamo insomma che ci sono molti movimenti sul sito. Poi se ci sono stati effettivamente degli accoppiamenti, ecco, questo non lo sappiamo. Ok, presto per dirlo. Per dovere di informazione, non è gratuito, vero? C'è un è gratuito. Ah, scusa, pensavo ci fosse un piccolo costo. No, è gratuito, tra l'altro noi presto, adesso abbiamo costruito un pochino la base del sito, presto faremo anche le altezze, abbiamo intenzione di fare un sito proprio di servizio che possa aiutare i single non solo a trovare un compagno, insomma una compagna, ma anche proprio a vivere la vita da single nel modo migliore, perché in effetti c'è un po' di disattenzione, è tutto pensato per le famiglie, per la coppia, e il single, non so, va in viaggio, paga il supplemento single, deve fare la spesa, ci sono delle dosi su famiglia che costano meno e le altre costano di più, e via dicendo. E quindi, e allora, insomma, un punto, anche uscire con i single, insomma. Ecco, un punto di riferimento. Ricordiamo qual è l'indirizzo del sito? L'indirizzo è www.singlepaper.it. Single, scusa, ti abbiamo perso, singlepaper.it, si scrive così. singlepaper.com. Perfetto. Un consiglio per chi si iscrive: mettete la fotografia e almeno mettete un luogo dove vi si possa incontrare al meglio il sito. Va bene. Grazie Manuela, ciao, buon Ferragosto. Grazie a voi, buon Ferragosto. Mine vaganti. E questo è lo spazio che dedichiamo a voi mine vaganti che vi proponete, a voi che ci scrivete, a voi che ci raccontate la vostra storia e ci dite sì, ci sentiamo mine vaganti. L'indirizzo per farlo è minevaganti@radio24.it. La prima mina vagante ci porta fino a Sparta. Noi spartani discendiamo da Eracle. Ci hanno insegnato a non indietreggiare mai, a non arrenderci mai. Ci hanno insegnato che la morte sul campo di battaglia è la gloria più grande che la vita possa offrirci. Spartani, i migliori soldati che il mondo abbia mai conosciuto. Tu minacci il mio popolo di schiavitù e morte! Questa è pazzia! Pazzia? Questa è Sparta! Spartani! Stasera cederemo all'inferno! E per arrivare a Sparta partiamo da Taranto e lo facciamo insieme al presidente dell'Associazione Culturale Taranto Spartana. Diamo il benvenuto al dottor Giovanni Orlando. Ciao Giovanni. Ciao, grazie per avermi chiamato e per l'intervento. Insomma, ci è molto piaciuta la tua storia, la vostra esperienza. Allora, velocissimamente, Taranto e Sparta cosa hanno in comune? La nascita, noi siamo figli di Sparta, perché nel 706 avanti Cristo un gruppo di spartani, non rifaccio la storia perché sarebbe un po' lunga, lasciarono Sparta e si rivolsero verso Occidente, giungendo dopo vari mesi a giungere sulle coste tarantine, perché l'oracolo aveva predetto, l'oracolo di Delfi aveva predetto che avrebbero conquistato quel territorio e avrebbero dominato perennemente su questa zona. Ecco. E poi divenne la città per eccellenza, perché si confrontò con Atene nei secoli successivi in maniera magnifica, anche perché ebbero una serie di personaggi eccellenti che portarono Taranto all'apice del successo da allora internazionale. E 2716 anni dopo voi avete deciso di rendere onore a questa fratellanza e l'avete fatto con una sorta di pellegrinaggio laico in barca a vela. In barca a vela, come lo fecero loro e i nostri avi, ripercorrendo a ritroso il percorso in barca a vela, quindi giungendo prima a Delfi, dove l'oracolo profetizzò, e lì abbiamo lasciato sia una lampada d'olio in memoria di questi 2716 anni e tre piante di mirto tarantino, perché la città di Taranto, fra le altre cose, è una delle poche ad avere tre piante autoctone che portano il nome di Taranto: il mirto, il noce e un cipresso. E tre di queste piante sono state consegnate al sindaco di Delfi, che ci ha accolto come dei fratelli, e le ha piantate nei pressi della città e ha accolto la lampada che avrebbe acceso in momenti particolari. Poi abbiamo preso il mare, abbiamo circumnavigato il Peloponneso per giungere a Gitio, che è il porto degli Spartani. Tra le altre cose, a Gitio c'è anche l'isola da dove partì Elena con Paride, quindi una cosa eccezionale. Risaliti su a Sparta, abbiamo anche lì incontrato il sindaco, anche lui ci ha accolto in maniera eccelsa. Siamo tornati ad Amicles, che era il quartiere dei partenici, cioè dei nostri antenati. Abbiamo reso omaggio e al centro poi di Sparta abbiamo piantato altri tre mirti tarantini, esattamente a contorno del primo oplita, della statua, del primo oplita che cadde alle Termopili. Ma in quanti eravate voi? Eravamo in tre, perché l'impresa era abbastanza pesante, abbiamo dovuto sobbarcarci tutte le spese. Lo skipper Alessandro Maruccia, il marinaio che accompagnava Alessandro Maruccia, Peppe De Simone ed io. Quindi 1000 miglia in barca a vela più o meno, vero? 1000 miglia in barca a vela in 28 giorni circumnavigando il Peloponneso, in parole povere. Ecco, e vi sentivate più spartani o più tarantini? Beh, è la stessa cosa, perché come dire, si sente più da Dio figlio o da Dio padre. Volevo metterti alla prova, volevo capire se eri pronto. La cosa che mi ha colpito in quello che ci hai raccontato è che sì, ok, nell'opinione pubblica locale qualcuno sapeva, qualcuno ha anche scritto della vostra spedizione, ma non più di tanto. In Grecia invece grande accoglienza, grande risalto su tantissime testate. E man mano che percorravamo, anche perché abbiamo contattato i fratelli greci tramite Facebook, sono nati 19 blog a noi intestati, hanno gli ateniesi, perché poi molti degli spartani per vari motivi sono ad Atene adesso, sì. 6 milioni di abitanti su 10 milioni di abitanti totali della Grecia, ci hanno chiesto più volte di andare ad Atene per una trasmissione televisiva. E questa trasmissione televisiva è svolta dalle 23.30 a mezzanotte con un nostro amico che è il direttore del Museo Medievale di Atene e ha fatto da traduttore perché ha studiato in Italia, e abbiamo sviluppato questa trasmissione proponendo a tutta la Grecia il perché del nostro viaggio. Subito dopo, a mezzanotte, mi hanno chiamato e c'è una signora al telefono, guardi, non sono di Atene, non è possibile, no, la vuole parlare, era un architetto italo greco che si complimentava del tutto e ci ha trattenuto un bel po', con tanto piacere da parte nostra, chiaramente. Il giorno dopo, mentre prendevamo un caffè ad Atene, una signora mi ha fermato, mai vista, e mi è piaciuta la trasmissione di ieri, continuate. Insomma, vedi, la forza della TV. Insomma, una bella cerimonia alla partenza, una bella cerimonia all'arrivo l'11 luglio, quando siete ripartiti, vero, da Atene. E adesso da questo progetto, da questa vostra avventura, nascerà qualcosa? Ci sarà un seguito? Certo, innanzitutto perché noi siamo giunti a Sparta per riportare, abbiamo portato la vita di Taranto, c'è cioè questo mirto tarantino che fra altre cose è circondato dal mirto greco lì nel giardino intorno all'oblita, primo pietra caduta alle Termopili. E abbiamo riportato a Taranto dei cofanetti con sacro suolo di Sparta, uno dei quali è stato donato all'arrivo al sindaco come sigillo dell'impresa compiuta. E il sindaco da tarantino, sì, Amante del greco, ha baciato il cofanetto come segno di riconoscimento e di gratitudine nei confronti dei nostri avi. Quindi gesti che vanno anche al di là del mero atto simbolico. E certo, su internet è tanto spazio, in Facebook, è vero, sulle vostre pagine dove ci sono anche foto e filmati, quindi insomma si può anche vedere questa spedizione. Stiamo portando avanti sono circa 250-300 foto del viaggio, più stiamo provvedendo al filmato globale che ci stiamo sviluppando per poter inserire su Facebook, sempre Taranto Spartana su Facebook, e in più c'è l'intervista che abbiamo rilasciato da Atene, che stiamo progettando di inserirlo su Facebook in modo tale che chi abbia interesse a darci un'occhiata possa arrivarci tranquillamente senza problemi. Grazie a Giovanni Orlando dell'Associazione Culturale Taranto Spartana. Ciao Giovanni, buon Ferragosto anche a te. Grazie. Parliamo di pappa, parliamo di cucina con questa Mina Vagante che ci è stata segnalata da un ascoltatore che ci ha scritto all'indirizzo minevaganti@radio24.it. Diamo il benvenuto a Mercedes Piccolo, una cesarina, cioè fa parte di un'associazione importantissima, un'associazione italiana, un progetto Home Food, associazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culinario gastronomico tipico d'Italia. E lei cosa fa? Apre la sua cucina qualche volta al mese per far vedere come si mangia in Italia. Ciao Mercedes! Ciao! Ciao, buona giornata! Buongiorno, buon Ferragosto! Buon Ferragosto anche a te! Siamo a Venezia, giusto? Sì, certo, Venezia. Tu ami cucinare? Sì, abbastanza, diciamo. Quando mi sono sposata non sapevo fare neanche un uovo. E poi un po' alla volta ho imparato e mi piace abbastanza. Ecco, diciamo che mi dà soddisfazione soprattutto quando faccio per amici, per stare in compagnia. Ecco, e in quanto cesarina, è vero che 2 o 3 volte al mese il tuo appartamento accoglie ospiti stranieri e lo scopo è proprio quello di far conoscere loro la tradizione culinaria italiana. I tipici veneziani, non solo stranieri, a volte anche italiani abbiamo avuto. Uh-huh. Diciamo, maggioranza sono americani, però anche italiani sono venuti. Ci troviamo al massimo 8 persone, oltre a noi, oltre ai miei familiari, e può capitare 1, 2, 3 volte al mese, ecco, dipende dai periodi. Ecco, è stato scelto il nome di Cesarina, questo nome quasi da zia, per tutte le signore. Siete tutte donne che partecipate a questo progetto? Sì, siamo tutte donne. Diciamo Cesarina perché a Bologna, nella zona di Bologna, erano quelle che si occupavano, proprio le zie che si occupavano della cucina in genere, allora hanno messo questo nome. Ma e quante erano le zie zitelle, le zie che non si sposavano, restavano, si occupavano della cucina in genere. E quante siete in Italia, lo sai? Più o meno? Di preciso non lo so, diciamo che a Bologna ce ne sono di più, sono tre, e poi sono sparsi un po' in tutta Italia, di preciso non lo so veramente. Tra l'altro infatti leggevo che è un progetto appoggiato dall'Università di Bologna e quindi è un po' lì il suo cuore, però anche sui quotidiani inglesi in questi giorni si è parlato di te, grazie alla tua abilità? Sì, beh, diciamo che hanno scelto me tra le altre, poi è venuta qui una giornalista, ha fatto l'intervista, hanno fatto delle foto, abbiamo parlato un po', molto simpatica, poi ha mangiato con noi e abbiamo parlato un po' di questa cosa, di come si svolge, da come è nata, tutto quanto, diciamo. Dopo da quello ha preso lo spunto, cioè mia figlia ha telefonato al Gazzettino. Tra l'altro è un giornale dove fanno spesso concorsi di cucina e avevo vinto due volte, avevo partecipato al loro concorso mandando delle ricette. Lei l'ha fatto sapere, loro mi hanno fatto un'intervista telefonica, hanno fatto un articolo molto simpatico. Mercedes, qual è il tuo piatto, la tua specialità? Dunque noi facciamo sempre lo stesso menù, perché ci mandano anche il menù scritto, sì, e proponiamo ai nostri ospiti sempre quel menù, proprio per regola. Inizia con il baccalà mantecato con la polenta, poi c'è di solito digo in salsa, che sarebbero degli spaghetti con le acciughe, oppure un risotto con il radicchio nostro trevisano, sì, qui, o quello di Chioggia. E poi sono le sarde in saon, che è lo stesso piatto di pesce, non so se lo conosce, fatto con le cipolle, va preparato due giorni prima perché deve prendere il gusto, è una ricetta vecchia che usavano dunque i pescatori quando pescavano in abbondanza queste sarde, stavano via giorni, allora le cucinavano in questo modo perché si conservavano e le tenevano, potevano mangiarle anche dopo una settimana. Insomma, credo è anche questo, no, il cuore del progetto, raccontare anche le storie che ci sono dietro a questi piatti. Grazie davvero, diamo anche il sito che è www.homefood.it per conoscere, frequentare e perché no diventare anche cesarina. Ciao Mercedes, grazie. Santino Spinelli, domattina ospita Uno Mattina, quindi possiamo anche anticiparlo, prossima settimana in concerti in Alsazia, poi il 22 a Spoleto, poi sarai con l'Orchestra Europea per la Pace, suoni al Palazzo del Consiglio di Strasburgo, tutto, sì, il 7 ottobre. Tutto il calendario sul sito alexian.it. Alexian, e come professore come sei buono? Sei bravo, sì, ma sei anche... Sì, bisogna essere meritocratici, no? Bravo, quindi certo. È importante che i ragazzi vengano preparati, perché più che la nozioncina cerco di trasmettere dei valori come educatore, diciamo. Per cui è importante che si studia non per il voto, ma perché sappiano riuscire poi nella vita. E questo è il vero voto che i ragazzi devono avere. Ma tu romani lo parli solo per, così, no, per studio, per cultura? Io lo parlo quotidianamente con i miei figli, a casa mia quotidianamente, è la mia lingua madre, è la mia prima lingua. E quindi tra di voi c'è, parlate proprio romani, ma che è una, adesso non lo so, scusami la domanda anche banale, cioè è una lingua internazionale? Quindi allora, la lingua romani deriva dal sanscrito, la lingua indiana, e si arricchì dagli impressi, diciamo, dei popoli, dei paesi che noi abbiamo attraversato, il persiano, l'armeno, il greco antico, e poi qui è una lingua comune a tutti i gruppi rom del mondo, dopodiché c'è stata una diversificazione. In realtà la lingua romani è unica per tutti i gruppi rom del mondo, per i 15 milioni di persone che dicevo prima, e solo che è diramata in tanti dialetti diversi perché è una lingua viva. Chiaramente io parlo la lingua romanì con l'accento italiano, chiaramente il rom francese lo parlerà con l'accento francese, il romani child inglese lo parlerà con l'accento appunto inglese, francese il francese, il rom jugoslavo lo parlerà con l'accento serbo-croato. Alexan, allora salutaci in Romania a questo punto. Certo, di nuovo Budbachta Sastibbe, che significa fondamentalmente che voi possiate essere sani e fortunati. La salute e la fortuna sono due elementi importanti nella cultura romanì, si esprime nei confronti di un congiunto, di una persona cara. Io vi rivolgo a voi fraternamente. Budbachta Sastibbe. Grazie, ciao Alexian, grazie davvero. Ciao a voi. E un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia con questa puntata di Mine Vaganti, scritta da Luca Rinaldi e Luca Cremonese insieme a me. Un grazie a Pietro Accorta, la parte tecnica. Mine Vaganti @radio24.it, se volete scriverci, la puntata sarà in podcast sul nostro sito da domani.